가가가 고놀라 가모나 Quella che tu hai china qua, mamelo, quella china che tu hai sopra qua, mamelo, flop, umanyanga va che tu va wanuka, mamelo, flop, guardando va che tu va sopra qua, mamelo, ana, che mo bembo, mamelo, ana, e benga sisi, mamelo, ana, da che de mo tako, chaba, mamelo, ay, love, love. Mamelo, Valante aquí de Luoze, Mamelo, Mamelo.